Daniel. Bello Daniel. È tanto. Io mi ascolti, sì. Sì, sono ben chiaro qua. Anche tu hai migliorato, cosa hai fatto? Nulla. Oh, ho messo l'antenna, da dove l'ho appoggiato a quel muro che c'era, che hai visto tu. Arrivi meglio, eh. Meglio guy. Cos'è che non avevo provato, se non sbaglio? No, mi sa di no. No, no, no. Sei quasi in off. Zitto. Basta un niente e cambia la situazione. Vabbè che questa è anche la matto, ma poi non lo so, cosa fa l'altra. Ah, l'altra è data all'Angelino. L'altra l'ho prestato all'Angelino, che lui era stessa. E così ho sta sempre in funzione. Via. Ma qua non so la piazzata però. Sì, la piazzata l'abbiamo provato. È tutto. Addirittura dove abita lui, ho sentito sino a Iti, in macchina. No, oh, non ho più sentito. Ma vero, sono coincise le situazioni, capito? Però vabbè, sono, non stai neanche più entrando neanche lui. Abbiamo fatto un paio di prove così. Anche la vera arriva, a voglia. Io meglio, no? Mi sa che aveva abbandonato la 27. Cosa lui? Che aveva abbandonato la 27, Angelino. Aveva abbandonato perché si è rotta l'antenna, poi tra casini e lavoro e quell'altro non riusciva più a piazzarsi l'antenna, capito? Ma tu a riposo oggi? Ieri oggi era a riposo e su domani riprendo. E io poi lavoro domani, poi rientro martedì. No, faccio domani, poi ho quando diciamo libera tutto il giorno, riprendo la sera e tra questa ce l'ho libera appunto. E pagato. Oh, yeah. Già va bene, già va bene. Mi sono sgano chiamato due arachidi. Fai bene, Ugarie, fai bene, mangia, mangia. Allora, la vitella. Io sento qualcuno parlare sotto, ma non capisco. Ah boh. Vai a Marcello, e qua entra, e tu che di più ne entra. Beh, adesso inizia col caldo, inizia ad arrivare la propagazione. Ma è bello che sono tutto l'inverno, io ascoltando l'inglese, di tutto. È una cosa allucinante, non solo per... prima era solo per il bel tempo e tutto, che c'era la propagazione, ma qua è tutto l'anno. Già lo so. Cara. Oh, strano, ma oggi c'ho quel rem tutti ai minimi storici, diciamo, da quando sono qua. Ma perché non stai bene? Cosa, Luca? Ecco, quel rem è bassissimo. Ma t'avevo capito, forse qualcosa che ti disturba. Niente. La cosa che mi disturba è quando il piccino attacca la... un po' clave. E allora già si sente il QRM. Oggi è a zero. Va bene. Tu si fa sentire, no? Cava. Tu hai fatto l'apparecchio, te lo scegli, pulito. Sì. Fatelo vedere. Sì, batti l'apparecchio. Ehi, già va bene, sei 5 picchi di sì. La radio è perfetta. Va bene, forte. Perché provo a fare una prova. Vedere se sale, se migliora qualcosa, aspetta. Allora, fammi vedere come cazzo è. Allora, devo abbassare i watt qua. Adesso ho abbassato i watt. Aspetta. Guarda adesso. Hola. Sei quasi 9, sei tu. Va bene il segnale, la radio è sempre uguale, perfetta. Non mi senti più, Daniel. Segnale 6-9, con 50 siede su quello. Cosa? Ho fatto io sia, 50. Come sei sceso il segnale? Sono sceso. A passaggio? Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso stavo lampeggiando l'altro, sì. Stavo lampeggiando. Sempre uguale il segnale mio. No, sì, no, per quale c'è la radio, ho detto cazzo tu che è peggiorato, sei saturo. Aspetta. Guarda adesso. Adesso sei come prima, va bene. Il segnale è aumentato tanto. perché c'erano i watt al massimo, 20 watt di stavolano, speriamo non l'abbia bruciato. No, se l'avessi bruciato sarebbe andato così, no? Perché questo qua c'ha il manopolone, praticamente c'ha le manopole tipo il Typhoon, così, no? Ne ha due, di cui uno dei watt e l'altro dell'RF Gain. Cavolo, ma quanti vatti stai uscendo? Con 50 adesso. Passa poco, sì. Da un segnale, io adesso sono una paratia. O che croce, dai. Come del genere. Segnale, se no, perché io stai guardando 9, quindi. La proporzione ci siamo. Ogni tanto lo metti in moto, dai. Lo metto in moto, lui. Quando c'ho tempo, è sempre acceso, mi va fin fine. Poi adesso trovo, prendo insomma la sigaretta, ho sentito un movimento e ti ho risposto. Gap. Oh, yeah. Ho fatto un bel pisolino. Ci vuole? Che era? No, niente pisolino. Tutta la tirata stanotte e poi la mattina alle 8 si va al lavoro. Gappa. Cosa fai? Non fai niente comunque, da Pasquetta. Vabbè, Pasqua lavori, mi ha detto così. Io sono contate mattina di Pasqua e rimonto la notte di Pasqua sempre e poi c'ho Pasquetta moto e ce l'ho detto, ah, oh, quindi a Pasqua siamo la mia suocera e Pasquetta allora faccio un giro, non lo so, vediamo. Ah, ecco, io sono amico con Carletto, Silvana, domani, no domani, domenica, scusa, ad Alghero. Che ragazza, già va bene, sono andate fuori, ho una passeggiata. Ho prenotato per, come si dice, per mangiare un petto composto. Ah sì, avete fatto bene, fatto che era una giornata diversa, intanto, cosa vuoi fare? Sì, ma infatti, ma già sei gana, mi sa che a Pasquetta non faccio niente. Non io voglio riposarmi, Daniel. Lo so, Luca, lo so. Ah, a quei ritmi lo stesso anche tu, io. Ma sono leggeri. Furia. Casino. Pienso da trovare un amico che sta morendo, poverino. 44 anni, cazzo. Furia. Una malattia di merda. Purtroppo. Se la vi. Se sai che pesa, 25 kg, 30 kg. Cacchio. Allora, ricoverato. Sì, ricoverato perché ha bisogno di, come si chiama? Ha bisogno di, dell'ossigeno H24. Faccio per fare. Se stacchi l'ossigeno, vuoi fottito, muore. Allora, i problemi sono ai polmoni, così è. Polmone collassato, va. Buonanotte. Per dire arriva la malattia, ma che è una malattia di merda proprio. Fumava? Abbastanza. Purtroppo è così. Dai, cosa ci vuoi fare? Sì. Quindi, vabbè, non parla neanche, ormai non parla. Non si capisce di quello che dice, pensare che era una persona abbastanza attiva, nel senso che era divisi, diciamo, fra io e ecco, chiamiamolo così. Perlomeno io non lo capivo, loro magari riescono di più, tipo la moglie. Comunque gli ho chiesto se mi ha riconosciuto, mi ha detto di sì, come mi chiamo, però cioè, non lo capivo se diceva bene il mio nome o meno. Proprio ormai è andato, infatti gli stava attaccando anche la cosa, come si chiama, vabbè, il tubicino che va alla coccanula, c'è il coso lì, la morfina. Così è, la morfina per farlo soffrire con i dolori anche. Secondo me sta soffrendo è tanto anche. Guarda, non hai parlato, adesso si è alzato il QRM di nuovo. Non mi senti? Ehi, aspetta, già ti sei, già ce l'ho a tre. Adesso, tu sei 9, quindi a voglia. Ah, ok. Ma poi sono, mi dava fastidio. Che non mi senti? Ieri, ieri. Una TV 32 pollici con decoder esterno, 30 euro. Quanto? 30. Cavolo, e cos'è la luce? Aspetta, non ho capito. Aspetta, una TV Toshiba con il decoder esterno, 30 euro. Ah, piatta, no? Sì, piatta, piatta. Ah, e che epoca è? Eh beh, se è il decoder esterno mio avrà, penso, una quindicina d'anni. Già va bene, già va bene. Io lo stesso sto andando col TV Sat, con satellite, che qua è un casino con segnale della TV. Quindi, anche se ho il televisore moderno, sempre del colore del non ce l'ho. Ah, se lo amplifichi, secondo me va. Ehi, va amplificato, lui. Fatto. Tutto adesso, vado. Devo riprovare. Però abbiamo fatto qualche miglioria del segnale. Sì, vabbè. Momento, già ce l'ho il televisore, basta con la, c'è proprio ingresso, sia terrestre che satellitare. Però se l'attacco al decoder satellitare non è come il TV Sat, è un macello, Daniele, ci vuole anche un'antenna buona. Se tu metti un'antenna di 10 dritti, se no anda, devi prendere una flaccaro, quella grande, perché ha molti dB di guadagno, capito? Costa, però è un'ottima antenna, e in più amplificata. Gara, già, un giorno già mi ci metto la faccia, siamo, ne ho voglia, di un macello, lasciandone quel palo e quelle stampe, tutto quanto. Vabbè, quando puoi lo fai. Poi devi mettere l'antenna quella buona, capito? Quella buona, 37 euro, riesci a vederci, 512. Devo comprare una SSD, perché voglio potenziare l'altro computer che c'ha quello meccanico, il, come si chiama? Hard disk 4 terabyte, se quanto costa 4 terabyte, vediamo, adesso 229 euro, minchia, vabbè, 4 tera, tanta roba, cara, il mio sta iniziando a rompere le scatole, tra virgolette, mi dice che se può fare, ma ecco che a questo ottobre mette a fare gli aggiornamenti. Ma qual è? Windows? Il 10 c'ho. E beh? Perché a ottobre è prima di fare gli aggiornamenti. Che voleva passare a Windows 11, cosa cavolo è che voleva fare, boh, non lo so. Però non è compatibile. Vabbè, sei un PC vecchio, no? Ho visto che c'è ancora, stanno tranquillo. 50 qua già lo tengo. Ma che stanno ancora Windows 7, lì. Tu la ti credi? Sì, quanto vanno ben venga. Poi il giorno che non si fa fare più niente, poi te faccio entrare su Google e fare, insomma, determinate cose. Poi per il resto stampa queste cose. Poi per il resto facce. No, beh, certo. Certo che sì. Oh, yeah. Cruciale. Sì. Solido 3D. NAND. Adesso vediamo, lo ordino. Questo qua è piccolo. È una crucial, insomma. Questo è da 140 giga. Adesso vado un po' dopo la ricarica, me lo ordino. Così glielo installo. Installo Windows 10, con SSD viaggia molto meglio. Io questo qua che sto usando adesso c'era quello meccanico, la disk, era un po' così. Gli ho messo l'SSD, una bombetta, vada addio. Ed è un i3, il processore. Ma mi avevo messo, poteva essere domenica domani, no? Vabbè, quindi fai domenica, vai a riposo e poi martedì riprendi, così è. E gli altri di balle. Questa è ora. E vabbè. Purtroppo, dai, tu di lavorare bisogna stringere i denti e andare avanti, capo. Non so, Rani, purtroppo è così. Aia, dai, ti giù conto. Aia, un casino, cazzo, un casino. Lavoro è quello che è, ma venne assai. E tanto sembra così, sembra che sono entrato io, ci sono già 7 mesi, cazzo. Come vola il tempo. Vai, Goku, vai, vai. Beh, cadio. Allora, ciao Daniele, mi senti? Ehi, a voi Claudia, buonasera, mi sentito? Che ti servono, va bene. Cos'è il buccio, la zeta sotto l'antenna? Cosa ho messo? L'accetto sotto l'antenna hai messo. Sotto l'accetto l'ho messa. No, la bitella pure. A candarella c'hai sotto l'antenna, eh? Ascolta lui, tu che... Ma Daniele, è mancato un po'. Ma la modulazione va bene di questa radio? Sì, cazzo, non la sto usando. Non la sto usando. Bene va la modulazione? Sì, sì, claro. Perfetta. Ma anche di segnale sei salito, eh? Prima di più basso. Arrivi, non bene, di più. Sì, vabbè, tieni conto che io non vi vedo, se non lo vedo, però... Per fare 2 chiacchiere più che sufficiente, per sollevare il segnale e arrivare quasi come prima devo mettere l'antenna sul tetto, non mi fido. Poi lascia perdere, mentre domani hai chiuso le zone. No, no, no, voglio dormire la notte io. Già vabbè, per salutarvi ogni tanto. Già vabbè, anche voi siete oltre il 9, oltre il 9. Becca, voi bugnetti, sta a posto, Daniele. Tutto a posto, Claudia, possiamo lamentare, andando piano piano, sempre avanti. Voglio un guy. E cosa vuoi che ti dica? Io sono più impegnato adesso che quando stavo lavorando. Sempre da fare, sto completando, facendo, uia, passa per te. E due dinanzi, due scelte, ragazzi, di Biono, vabbè. La campagna purtroppo è così, c'è sempre da fare, mi lascio fuori e stavo controllando le mattonelle che ho per fare una pavimentazione nel corridoio del Caviglio, ma penso che non mi bastino i contendi, ma mi gioco rompito la balla e vanno col tubio. Ehi, vabbè, purtroppo è così, no, adesso ce l'ho a casa e quindi stiamo battagliando sempre di più. Perché l'hai riportato a casa? Claro, troppo era la struttura, boh, basta per le trasmissioni. Non lo so, costa un bel soldi, purtroppo è così. Vabbè, se però ce la fai, ti accampa, cosa devi fare? È così, è così, è così. E bello Gariere, da posto. Sto dicendo a me che mi sono spostato un attimino a prendere la crema. Sto dicendo a me? Sì, ti aggiunto tutto a posto. Sì, sì, sì. Sai che passo ogni santa mattina vicino a casa tua, ogni santa mattina. Sì, già lo so, che passi sempre qua. Che tu passi all'ora di là della montagna, tu passi un bel prezzo. Difficile quello la sia in piedi. Io imbocco la strada alle... fai 8-5, molte volte alle 8, stamattina un po' in ritardo ho fatto la strada vecchia, per carità, che carriera avvea. È brutta, è pericolosa pure, perché c'è tutte le uscite pericolose, capito? Trattori e balle varie. Siccome lavoro in fattura anche abbastanza veloce, perché c'hai degli orari da rispettare, lo so come funziona, quindi stai sempre con gli occhi aperti quando fai quella strada, fatti quell'affioramento veloce, se abbi le luci, non c'è problema. Ma non accogliate, ne accorgi, se vedi che gli sportelloni sono tutti chiusi, sono ancora a letto, ma poi non ci faccio niente in piedi a quell'ora, ma non che no, non debba fare... Baker. Va bene, mi stai ascoltando, sì? Oltre 9, sono così esercizi, ma mi sa che sei oltre 9-10. Tu sei, quanto è Daniele, uguale identico. Quanto è Daniele, sì, la radio è perfetta, come al solito. Sì, sì, sì, va bene, dai. No, vabbè, Fabrizio ha fatto un ottimo lavoro su questa antenna, era da buttare, Vicla, era da buttare veramente. Vedi, me lo ricordo, me lo ricordo. Ma lui conosci, io ho fatto la roba, le roppo le palle, lui anche stamattina, mamma si è. Ogni tanto dopo le palle, sempre qualche cosettina anche a me, che me la sistema, me la mette a posto, mette il Radio Rich, lui, la sapete. E io c'ho, vabbè, la... come si chiama? No, vabbè, alla fine manco lo sto usando, il Typhoon. Praticamente uno rimane troppo fermo, non esce né di radio, poi una volta che scalda, vorrei capire cosa devo cambiare. Perché se riesco io una cazzatina poi me la faccio in soldi, tanto non lo sto usando. Mi tengo questo qua che sto usando adesso, il 3009, che è una bombetta, adesso da un po' che non lo attacco. No, no, basta uno, ma io a volte vi ascolto, ma c'ho sempre quelle due o tre persone fisse Dio, che hanno bisogno. Ma i giochi sono fatti oramai, con la tecnologia e la radio, sì, è sempre bella, per carità, io non l'ho mai staccata, anche se non ci sono, ma non l'ho mai staccata. Mi seguo quando poi mi va di fare due chiacchiere o di salutare qualche amico, entro, ma, però non l'ho mai staccata. Ma i giochi sono fatti, non vengo da là oramai, è andata, a 27 è andata, soprattutto a Sassari è andata. Va bene, poi mi stufo subito, non è che mi va più di stare. Dai, vi saluto, Lugaria, sono andato a salutare a te, Daniele. Saluta mia mamma, Daniele, e cerca di tirare la matracca, piano piano. Noi a Pasqua siamo tutti la mia mamma lo stesso, ha 94 anni, quindi cerchiamo di farle campare fino a quando ci sono. Andare, dai. Ciao Lugarie, un abbraccio anche a te, ciao Dani, e saluto anche quelli che sono all'ascolto. Riprendi Daniele, che me ne rimbalzo fuori e continuo a contare sto cazzo di mattonelle se ci riesco, perché devo sapere almeno quanti metri quadri riesco a fare con queste mattonelle, se no bisogna ordinarle, perché me le avrate proprio Fabrizio e devo trovarle più o meno uguali. Riprendi Daniele, ciao raga, buona chiacchierata. Campa di no, metro Claudio, sarà fatto. Sì, è legale, anche una cosa tutti assieme. La famiglia. E va bene, ecco, alle prossime, se coincide, salutoni al correo familiare e buon proseguimento di serata. Mi prendi lui. E da ciocla, salutami a casa, in casa. Alla prossima. Ma claro, i missili di Battaglia d'Italia non ho mai contato di mattonelli. No, che ero minori, andate via con te, mattonelli, non sapevo già detto là. E il gingò, mi hai staccato in era con un lascetto. Ehi, oggi mi ha fatto vista la goggia per attaccare la dentiera. Andava, dai, ciao qua. Ciao, Lugarie. Vi manco ogni tanto a farvi divertire, già ci sentiamo quando vi sento, tanto salutare. Ciao, Macio. Saluta la signora, saluta mamma, saluta tutti, ciao. Ehi, Lugarie, sarà fatto. Quattro cambiano. Va bene, va bene. Riprendi tu. Ehi, che ha pagato. Ciao, va bene, dai. No, ho capito questo... a proposito, che adesso me ne sono ricordato. Volevo chiedere a Fabrizio, appena possibile, questo alimentatore da... forse 35 ampere. Sì. C'ha la davanti, l'ingresso, vabbè, è carino anche con gli strumenti. È uno switching. L'ingresso... accendi i sigari, però ha come si chiama quello per aumentare l'aria, ampere, e l'altro che non comandano. Non so se li hanno disattivati, non so perché non fanno. E se ne è chiamato il potenziometro, lui non è niente di grave, lì ci sono cose che ti devi fare tu. No, sei sicuro che sia un potenziometro? Sì, l'ha fatto anche a me, io siccome non c'ho attrezzatura, non c'ho niente, a me me l'ha fatto lo stesso. Andavo a toccare e faceva... tutto si incasinava, capito? E ha messo un uovo. Purtroppo con l'andare del tempo, soprattutto questi cacchi dove è entrato le switching, si bloccano quelle cose lì, capito? Anche perché noi tocchiamo, lo regoliamo a 13,8, lasciamo stare così e si inciolano. È una gaggata. Quello lo togli, te lo vai a frigiare, te lo compri, te lo piatti e vedi che funziona. No, ma non è il discorso, sono proprio un comando, non sono... Cioè, praticate come ci sono per niente lì. Come se li hanno messi apposta, ma non funzionano. Io sto per fare la regolazione giusta, non so ma cos'è, mi stai erogando a 13,8. Dovevi attaccare il tester e controllare. Ascolta, ma dietro dove c'hai... Non è che c'ha qualche interruttore, no? No, no, assolutamente no. No, perché il mio c'ha un interruttore dietro che praticamente inserisce e disinserisce gli strumenti. Capito? Anche se tu tocchi i potenziometri non si muovono. Questo della Proxel però, questo della Proxel 60, 59, 60. Capito? Non so. Parlane con Fabrizio e ti dà una consulenza. Capito? Se no me lo dai, ma ci vediamo, me lo dai e lo faccio controllare, non è un problema quello. Ti ho mandato la foto, sto mandando la foto qua. Ma se hai bisogno di un alimentatore, una giudizia di mezzo alimentatore, non ti creare problemi in lucariera. No, Cla, c'ho anche quello autocostruito, quello da 50 ampere, poi non so se è da 50 ampere, ma non mi ha mai dato problemi, no, non per quello, no, non assolutamente. Ho visto, c'ho quanto costava questo alimentatore, da il 35 SW del PK, costava 300 euro, Sono cari gli alimentatori adesso, penso questo la proxia che ce l'avevo pagato 150 euro, figurati, ma ce l'ho una vita. Funzionano bene, sono buoni, sono degli ottimi alimentatori, però io ne ho uno solo switching, sono tornato alla normalità e gli altri tre che ho che mi alimentano le radio sono transistorizzati, sono a trasformatore, perché quando aumentavo la potenza si bugiavano e iniziavano a, la ventola si aumenta da solo. Invece quelli sono silenziosi e vanno benissimo, capito? Va bene, dai, che vado prima che faccia buio a finire questa cosa e vado anche a mettere a posto. Se hai problemi, tu lo sai, no? Non ce ne sono. Mi fai una telefonata e intervengo subito. Ciao, raga. Ehi, la costa praticamente su eBay e il, vabbè, il, te l'ho detto, il PK 35 SW 100... da 110 euro. Vuol dire che sono alimentatori buoni. Se costa vuol dire che sono alimentatori buoni. C'è da fare. Vabbè, comunque ti ripeto, se hai problemi fammelo sapere. Che me lo dai e lo faccio controllare a Fabrizio. Ok, ciao, ciao Dani. Ciao, ciao Cla. Ciao Claudia, alle prossime. Vabbè, cosa Lu? Ma non stavo andando, come va? Ho detto se stai erogando 13,8. Ah, lo stai controllando? Allora, Fabritella, adesso lo controllo, vediamo un po', cosa mi dici? Carregare e carregare, prova, ma sicuramente sì. Sì, 13,8, però non comando più, più niente, zero, vedi? Di giro non fa un cazzo. Non so cosa gli ha preso. Non lo so. Sì, comunque 13,7 e 13,8. Ehi, volta giù il suo, sei giusto. L'importante è che non vada, è troppo in giù, è troppo in su. No, quello no. Quello no. No, mi ha messo la pulce nell'orecchio, Claudio, ma non ce n'è la tassina dietro. No, c'è la tassina d'accensione e basta. La ventola non si attacca mai, mi sono disattivata, che cazzo ne so, non so niente. La ventola non si attacca mai. Non lo so. Vabbè, questo sono disattivata io. Lisa, mi sono fesseriato infine, dunque. Capito. Magari quello sì, sta a cambiare quel potenziometro, magari. Mi senti, sì? Sì, Lugari, sempre tranquillo. Ho toccato questo tasto dietro e ha fatto un suono strano l'apparecchio. C'è scritto voltaggio 13,8 e poi c'è scritto adjust, cosa vuol dire? Non lo so. Adjust sarà per il settaggio forse, una cosa del genere in italiano. Ah, ho capito, Non lo so. Ho trovato la mappetta per vedere un po' se c'era quella attaccata, non c'è niente. Sta scaldando la lampria, che sei bullendi, Cavolo. Una ventolina ci devi mettere. Sì, ventolina, ce la mani così. No, non si fa, ci mette un lampo. Se un inchio a rompermi le balle. Cazzo, io c'ho propagazione sotto. Porca miseria. E va bene, interessante che non ti dia problemi. No, già è tutto... adesso è tutto... pace, è abbastanza... potenza di ciampa arrivata. Sì, ma quello che dico io non ho capito perché non si attiva la ventola. Non lo so. Non lo saccio. Perché c'è una specie di termostato, infatti sta arrivando la temperatura. Chiudo il contatto e fa partire la ventola. Sì, ma il problema è che non si è mai attivato. Vai a tenere la cuccia. Dai la ciuccio, va, prendilo, vai. Tenere la ciuccio, vai. Vai, dai. Prendi, esci, dammi. La prendilo, vai, mosca. Via, è venuta qua, basta te, dai ma ciuccio esci, mi voglio preso questo cosa, aspetta, via, qui senti, sì, esci di capo, ah, io mi stai facendo male, ehi, mi stavo chiamando un sto cazzo di unghie, allora ciuccio, aia, dai, musica, no? Però... l'hai comprato, l'anatra l'hai comprato. Cosa, Daniel? Ho detto, l'anatra l'hai comprato. Comprato il? L'anatra. No, maialino. Cazzo, spagnoli, che cazzo sono, c'ho solo. Non sono più un pezzo di un'anatra, papera, blu. No, ho regalato un computer piccolino, se avessi riesco a farlo partire. Non so se c'è l'hard disk dentro, boh. Scusa, c'è un disk, no? Che se ne è tutto. Adesso stiamo provando ad aggiustarlo. Scusa, c'è l'SSD dentro, boh. Ho capito che c'è scritto anche il cacciavitino piccolino, che c'avevo quello carino, boh, sparito. E sparisce la roba così a me. È una cosa impressionante. Ma il cazzo ci è uscito, ho capito. Porca paletta qua. Non lo so. Non mi serve. Adesso provo a vedere se trovo. Se trovo uno spinotto per accenderlo. A vedere cosa dice. È un Olivetti. Sì, chi è? Chi è? Di quelli piccolini, allora. Cosa? Ho detto di vecchia data, sì, è adattato, sì. Abbastanza, ma ciuccio, ma dai. Scusate, mi stai attaccando un caricatore qua. Adesso vedo un po', trovo uno spinotto. A vedere un po' cosa dice. Se riesco ad accenderlo. Però anzi, prima di accenderlo volevo... se mettessi il lugar c'ha vite, porca patta, se non lo usavo come l'acqua. Non lo trovo, cazzo, lo usavo spesso e volentieri. Non so che fine abbia fatto. Che giramento il lugar. Non c'era nessuna parte. Sto usando l'altra volta. E non ci sarà caduto dietro al letto. Uno l'ho appoggiato. Altro giorno. E che se ne so. Sì, chissà dove è finito, poi quando c'è tre cose non si trova, non devi più usare le trucchi. Che vedere, così come hai detto tu, è vero. Ma non ti serve. Non lo trovi. Quando... quando non ti serve... l'altra volta stavo cercando un coltello, no? Quello lo uso per fare forza aprire le cose. Da nessuna parte. Cercate di cercato. Vabbè, poi la firma, sono fregato. Un giorno vado a prendere... faccio quelle... quei cosi in plastica dove ci sono le caramelle, quelle gommose, no, quelli un po' granditi. Stavo cercando un... come si chiama? Un condensatore. Cazzo, apre il coltello da lì. Ma lo stavo cercando da giorni e giorni, lì. Ed era lì dentro. Sì, sì. Sempre così finisce. Sempre così. Tu pensa... che una volta sono entrato... è vista la mia soffitta, qua a casa. Ho appoggiato le chiavi della macchina. E stavo minimo 3 mesi, 4 mesi che ho messo. Più altro guarda. Ho appoggiato dentro la soffitta. Pensa a lui. Non riesco più a riapparire. Beh, certo. Il giorno che entro, e magari devo cercare un'altra cosa, a fare riappaiono le chiavi. Vedrai funziona così. E infatti, ma infatti. Perché poi le usate per scendere giù la macchina per prendere gli attrezzi. E quindi ho appoggiato le chiavi, e vabbè, le appoggio qui. Ma cosa devo fare? Sono andato a ricercare le chiavi, e le chiavi non sparite. Allora, questo lo devo dire. Allora, praticamente c'avevo la Matiz, no? Le chiavi le ho perse, non le ho più trovate. Per farmene fare nuove, una chiave da niente, lì. Sono speso 120 euro, l'ho fatto venire a casa. Ma mi sta andando in blocco il coso, Daniele, il... come si chiama? L'Ambri. Vai! Forse è troppo caldo. Dove staccalo? Sì, non me l'ha mai fatto, sicuramente qua sta scaldando troppo lui. E quindi va in protezione per questo. Cavaliera. Adesso non c'è più il freddo di prima, è troncato. Sì, ma infatti l'ho sganciato. Già, ti ascolto lo stesso. Da questo cazzo di battimento in banda, qualcuno in banda c'è. No, ma non so, deve essere solamente le propagazioni. Aspetta, c'è un attimo giù, mi sta chiamando Antonio, aspetta. Hai fatto. Chiama, chiama, chiama, chiama. Break? Eh beh, già. Ciao Luca, e allora? Sto parlando con Daniele, si è assentato un attimo. No, io ci sapessi. Eia. Come stavo andando in blocco l'Ampli, non so perché, non lo saccio, non l'isco, aspetta un attimino, già, per secondo, tu lo sai il perché, motivo. Ma quale, 747? Yeah. È andato in blocco, cioè è andato... sicuramente l'entrata troppa entrata. Ah, dici? Allora, fammi vedere un attimino, aspetta, 200, 500 giro questa disco, bello, bello, dove la Samsung? Adesso vediamo un po' se riesco a far parte di un computer, mi hanno regalato. Eh beh, cocomani. Ciao Marco. Eh beh, brittella. Beh, sono entrato solo a salutare, io ho la narice sinistra completamente chiusa e un casino anche parlare. Avevo salutato Franco che era sul 15 a fare delle prove, magari passa qua pure. Ciao Luca, Gianni e non so chi altro c'è. Kappa. E cosa c'è? Raffreddatoci. No, è sempre così, dovrei ordinarmi al turbinato, ma io non faccio toccare niente, mi dispiace. Ogni tanto la mucosa è più congestionata e ti si chiude, ogni tanto ti si mira e si sta aprendo un po' di più. È una rottura di balle già, perché ti viene la voce nasale, più di quanto non ce l'abbia già, ecco. Allora, resta, dai. Resta dove? Ma qua? Ehi! No, già, sto facendo una roba tra cucina, camera di mamma, camera di computer, spazzolando un po' il baracchino, e beh, è tutto. E fai. Buon proseguimento. Ehi, ciao a tutti, vai Luca. Oh, Marco, ci vuole un po' di mio duro per questo naso. Sì, ah, quello del film di... chi era? Vitali, il mio duro, certo, inizioni, eh. Si trova la piccata. Cavaga, una bella biondona con gli occhi azzurri e via. Sei sicuro? Di tutto si dimentica. Aspetta un attimo che forse ho sbagliato una cosa qua. Siccome non conosco questa panica qua, quindi mi risulta sul 9, aspetta un secondo, devo passare su 10. Ma che è Pomponio? Ne hai idea. Luca, hai risolto. Camionista, te lo facciano Pomponio. Cosa? Te lo facciano il camionista Pomponio. Camionista? Sei sicuro? La decisione è Pomponio, sei 48 è Pomponio. Non faccio il camionista, già lo sai. Sì, ma 48 quello che stai usando. No, la 87 per esattezza. Ah, lo sta modificando. No, me lo son preso. Non l'ho modificato. Te l'hai preso già così. Ma quello che stavo rubando da 120. Lo stavo per prendere io, poi ho detto che ci sarà la fottitura. Magari. Non l'ho preso. Ho pensato che fosse lo specchio per le allodole. No, per già, ma su internet. Via. Lo stavo rubando a 120. Ma c'è bene, non c'è male. Io non l'ho sentito ancora bene perché lo sento in nisto. Questo so cercato. Se ne scato, se. Vabbè, non lo conosco, devi farmi imparare, no? Non è che... A un certo punto sono come cosa normale, non è che sta usando l'amplificato. Abbassa il parlascolto. Aspetta. Così, va bene? Così sei di lusso. Ok, vabbè, sono contento. Già funziona bene. Ok, Marco, vabbè, tu cosa stai usando adesso? Come Antonio, ci ha chiesto? Cosa stai usando? Che bike stai usando? Quello lì, l'LMS 200. Va ancora bene? Ha voglia, io ho preso questo l'altro giorno. Allora, a Sassari, Antonio? A Sassari, sì. Io non l'ho preso perché ho pensato che fosse uno di quei bidoni che magari ti tirano, li mandi su e poi non ti mandano la roba, capito? Non l'ho preso per quello, se no l'avevo visto anch'io. Vabbè, lo conosci anche tu, che lo stavo vendendo, non è che sia un bidone. Daniele me l'ha dato, capito? C'è anche come si chiama, un apparecchio Midland modificato come questo, e poi adesso non mi ricordo cosa, qual era l'altro, capito? Tutti in vendita sono. E io ho preso questo, perché a me mi piace, l'ho avuto questo, mi piace, e va bene. No, esce bene, Antonio. Prova a dire cambio, a vedere se c'è la coda del legno. A ciò! Già va bene, dai. Allora funziona, visto? Funziona bene. Sammy! Oh, ciao! E buonasera, Antonio Matrinea! Ciao, un Midland stavano, un Midland alla 48 o 68, non mi ricordo cos'è. Ti allocchiamo e ti faccio sapere qualcosa. Di quanto ne vuole, così ti metti d'accordo. No, un 120 canali mi interessa, con le bande. FM, USB, LSB. Ecco, le bande adesso non mi ricordo se c'è qualcosa, ma comunque sia, ti faccio sapere qualcosa, no? Ok. Sì, Mario. Ok, buonasera a tutti, a tutti quelli che sono nella ruota. Ciao, dottore. Se dopo te lo vendo io. Banda A, banda E, banda F. C'ha 6 bande. Digitale, un bel... Questo lo sto usando adesso, No, di quelli di adesso non ne voglio, che sennò me ne avviai a comparare. Non mi piacciono, sono troppo delicati. Non mi piacciono, uno di quelli vecchi mi interessano. Ah, ok. Uno di quelli vecchi, ho l'iPhone. se ti interessa. Ma mi piace che insomma, è feo. Uno di quelli vecchi e non lo vuoi, che è feo. Questo di città non va bene, perché sono difettosi, quanto lo vuoi, dimmi. Fa parecchio su misura per te. quello SMD oppure quello vecchio? Ciao, va, vuoi truffo tu? Io sono fatto alla perfezione, ma lo sai che io sono di quegli antichi, giusto già? Io già ce l'ho uno di quelli che vuoi tu, ma lo vedo 450 euro se lo vuoi. Ma tu sei esagerato, va. Ma che forse me ne ha già avuto uno in coso. Ci ho già parlato con questo qua e mi ha detto vediamo. Guarda che quello che ti sto vedendo 450 costava 7,50. Esce con 100 watt, in banda in AM esce con 30 watt, in banda laterale con 100 watt, c'ha un dissipatore, c'è tutto qua. 400 euro d'ora. Ma mi ha bastato che mi ha comprato chissù. Che forse me l'ha già venduto. No, ma non lo sto scherzando. Questo qui, sai quanto me l'hanno chiesto? Poi da fuori non voleva uno e lo voleva 400, non glielo dà. Cosa volevo io? Già, te lo dico di quel Saturneco, cioè, no, il Saturneco quello a 100 watt modificato, te lo ricordi, cazzo, con display, tutto celeste, eccetera, eccetera. Marco si riconosceva che era un Saturn Turbo. Quando glielo ho chiesto, non sai cosa mi ha detto, dice guarda, te l'avrei venduto. Ne ho fatto solamente due, mi ha detto. Se lo vuoi, mi ha detto, dice, devi spendere 4.000 euro. E io ho detto, no, e tutti che fa una cosa, fai finta di che non ti abbia chiesto niente. Perché andava il 27, 11, 40 e 45. Ma ho usato un ecco. Te lo ricordi quello che aveva fatto con l'ingegnere elettronico che l'aveva messo su Facebook? Per farlo vedere, era veramente bello, guarda. Quello c'aveva, non gli mancava nulla, c'aveva tutto, sembrava un apparecchio radioamatoriale. Guarda, quello se avevo avuto soldi me l'avrei preso, guarda. A costo di averne uno solo, solo io, tanto per dire, però ha detto, dice no, ne ho fatto solamente due, mi ha detto, uno è per me, e dice uno l'ho fatto per un amico mio, mi ha detto, dice, e non ne faccio altri, dice, ci ho messo, dice, 6 mesi per fargli tutte queste modifiche, cose del genere, minimo, dice, ne voglio 3-4 mila euro, mi ha detto. E se non degna, col prezzo lì se lo tiene. Avanti Luca. Se ne va a vedere uno sopra l'altro, ok? Gianni. Ma sai quello che stava dicendo Pomponio? Quello che abbiamo visto noi online, che ci ha messo di tutto dentro, è presente quello spettacolare, quell'esemplare quasi unico, ti ricordi? Che ci ha messo tutto, software di gestione, lo spettroscopio, come si chiama? Quello lì, mi. Ah, cazzo, quello era bello davvero. Quello lì. Praticamente te l'avevo detto che se non vendeva non me l'avrei comprato, anche 1000 euro me l'avrei preso, ma 4.000 euro. Ma figurati tutto quello che c'è dentro, sia fatto i frontalini serigrafati, guarda, un lavoro folle c'è dietro. Tu immaginaci, se compravi a 1000 euro un Saturn o a 750, quello che è, un normale Saturneco, per quello è la mano d'opera dove la metti anche. Marco, se tu prendi quello non lo vendi più perché è un pezzo unico, mica lo vendi così. No, infatti poi gliel'ha anche detto, uno l'ha fatto appositamente per l'amico e uno per se stesso. Sì, quello può vantare di essere un pezzo quasi unico, da quasi, visto che ne ha fatti due. E va, è un modello unico, modello unico, ha due pezzi, un gemellare. E poi dentro lo sai che c'è un volgare baracchino, no? C'è un Ranger. E la scheda del Ranger, credo di averla riconosciuta, tipo il 2950 di Exo o roba del genere. Per il resto è tutto bus, alimentatore, lineare, sì, tutta la grafica, menate varie. Ho già, sempre un baracchino resta. E vabbè, ma anche l'occhio può lasciare a parte. C'è un baracchino brutto, io ne ho visto uno subito oggi, brutto come la morte, non sembrava manco un baracchino di quelli antichi che hanno le lucette rosse e con quei interruttori antichi che c'aveva anche la 500. Eia, vai, riprendete, Luca, riprendi. Un attimino, sto controllando un hard disk, riprendete voi un attimo, arrivo subito, riprenditore. Eia, eia, ti prendo io. Io mi sto cominciando una cosa, devo dare il comando di Rugo per spostare le alette di dentro. E non per riesce a pusciarle, via. Beh, da un poco. Tu qui fate di su. Magnaccio d'Alessio. Cosa c'è? Dimmi. Sto a fare bocca. Che se no dovete si dispiace. Vai già. Allora, mi seguo anche di quella si va a vedere. Non mi avete manco compreso. Che tu dici boh? Ho detto che sto leggendo il manuale del telecomando. Adesso è vero, lo voglio per spostare le alette di dentro, non quella di fuori, quella di dentro. Ecco io dove c'è aria. E non per riesce a girarle le alette. Ma che telecomando è? Quello della della FA, che cos'è? Nel condizionatore dovrebbe essere. Del condizionatore aria se c'è le alette, vai su internet, vai su Google e metti il modello e te lo spiega. Dopo entro nel coso, quando lascio a voi, anche se no perdo la parola. Dovrebbe esserci scritto come si usa. Sì, tutto bene. Come lo vuoi mettere quello di fuori lo metti. Che va di tutto, ah, fuori di spostarsi le alette di dentro. Mi comprendo, il mio condizionatore c'ha delle alette, come lo accendi si allargano, automaticamente si alzano e buttano fuori l'aria. Quali sono questi di dentro e questi di fuori? Non ho capito io. Dentro c'ha delle alette che tu l'aria la convogli sia a destra che a sinistra. Questa è destra e sinistra che convoglia l'aria e te le manda in due direzioni, te le manda. Io la voglio mandare tutta a sinistra e te ne manda. Buonasera a tutti, da Giovanni Stanco, cambio. Ciao Giovanni, buonasera. Cazzo, Giovanni Stanco. Adesso arriva bene. Quella GPA, un ausilio è. Quella per il tetto. Non ti ho capito. Quello da mettere sul tetto oppure un'antenna di macchina? È appoggiata in terra, è da un blocchetto messo e l'ho sollevata da terra e un blocchetto. Servono bene adesso. Io ho fatto un'altra e mi piace moltissimo, solo che la devo collegare. Aspetta, se non è 30 qua, non lo so io, ma c'è attaccato qualcosa? No, non so niente, c'ho questo Viking 2, niente. Sta arrivando bene, anche la radio è bella, microfono normale. Anche a me sta arrivando 9:20, sta arrivando, già. Grazie del rapporto di... Niente, un anno, c'è scritto, anche la radio, vedi, ogni tanto sballa. È l'AM International. Bravissimo Gianni, positivo è quello. L'AM Multimode 2 è quello, Viking 2. Esatto, proprio quello. Aspetta che c'è Claudio che sta schiacciando. Avanti Claudio. No, sono Claudio, sono rientrato. Ah, pensavo che sei Claudio. E come hai schiacciato? Bello, come va? Salutone circolare a tutti comunque. Tutto a posto ancora, tutto a posto. Mica qualcuno vuole l'apparecchio tuo, mica l'altro. Quindi mettiti d'accordo. me l'hanno chiesto pochi minuti fa, cioè mi dirà poi, adesso non mi ricordo l'altro cos'era, se c'avevi l'altro, qualche altro in mandato al canale. Ehi, mi chiedi chi lo vuole, chi va di là, se lo porta subito via. Adesso vediamo, se no prima lo senta io. Piatti noi come 140, fregati. Cosa lo stai dando? C'è solo, mi ti ha chiesto quanto lo stai dando. Evidentemente non l'ho chiamato al telefono. Di sicuro sì, se non ti risponde, di sicuro sì. Ehi, aspetta, fa un lavoro, ho capito che quindi deve essere reperibile, quindi a un certo punto. Comunque, l'apparecchio me l'ha dato lui. Va bene, Antonio, va bene. Ascolta, dove ti ha chiesto quanto lo stai dando? Ehi, l'altro numero di 300. Ma è il 2009 o cosa? Ehi, il Superstar. Superstar 2009 o 300 io? Ehi, modificato come quello. Ho capito. Cazzo, cioè va bene. Niente, ti do il mio, me lo verifichi così, cazzo, almeno me lo prendo 300 euro. Ma quello del trattorello cosa c'ha? Canali, bip, eccetera. Cosa c'ha? Ho detto, quello che dà trattorello cosa c'ha? Che c'è dove ti cazzo? Quello c'ha tutto. Capito, già esce completo dalla fabbrica, capito? Ah, quello che... Sì, l'ho avuto anche io, quell'unico. Che l'ho comprato già modificato dalla fabbrica. A me mi è partito dopo una settimana, non ho capito che cos'era, non funzionava più. Sono fatto che c'ero sempre fermo e tutto quanto e ciccia, e quindi ho chiesto e niente, tutto qua. Poi vabbè, c'ho l'altro operato perché ero che c'è fermo, ma quello mi fate dall'accello, faccio andare. Allora io l'ho visto 120 euro, però pensavo che fosse uno specchio per dell'allodone, capito? Modificato 120 euro, mi sembrava strano. Quindi non me l'ho chiesto, se sapevo che eri tu te l'avrei preso su. Cara, raga, poi è modificato, capito? Non è originale. Che ho capito, sì. Mi pare che mi fanno in Giappone. E secondo me già c'è bene, dai. No, già mi piace, come parecchio. Quindi figurati. Mi va bene così. Quello che avevo io, me l'avevo veduto Gigi, che ci aveva le serigrafie sopra tutto quanto. L'ho venduto a un'ottista di Urbia che mi ha fatto l'accordo, c'era quando gliel'ho dato. 450 euro l'ho venduto, c'era abbigliato.